Le comunicazioni che seguono fanno parte di una disciplina spirituale, il nome e la natura della quale riesce chiaro a chiunque la applichi giustamente. Esse si riferiscono ai tre gradini attraverso i quali la scuola della vita spirituale conduce ad un certo grado di iniziazione. Qui però si troveranno soltanto le istruzioni che possono venir comunicate pubblicamente. Si tratterà di cenni attinti da un insegnamento molto più intimo e profondo. Nella disciplina occulta si segue un corso di istruzione ben determinato. Alcune pratiche servono a condurre l'anima a comunicare coscientemente col mondo spirituale. Tali pratiche hanno una relazione con ciò che verrà qui comunicato, circa uguale a ciò che l'insegnamento impartito in una scuola superiore, severamente disciplinata, può avere con l'istruzione data in una scuola preparatoria. Tuttavia, l'osservanza seria e perseverante di ciò che qui viene indicato può guidare alla vera disciplina occulta. I tentativi impazienti, senza serietà e perseveranza, non possono condurre a nulla. Lo studio dell'occultismo può dare risultati soltanto quando si osservi ciò che già è stato detto e si proceda alla stregua di quelle norme. I gradini indicati dalla tradizione citata sono i seguenti. 1. La preparazione. 2. L'illuminazione. 3. L'iniziazione. Non è senz'altro necessario che questi tre gradini si susseguano in modo che per iniziare il secondo si debba avere già del tutto percorso il primo e per il terzo il secondo. Per determinate cose si può partecipare all'illuminazione perfino all'iniziazione, mentre per altre ci si può ancora trovare allo stadio della preparazione. Occorrerà tuttavia trascorrere un certo tempo nella preparazione prima che alcuna illuminazione possa iniziare. Occorrerà, perlomeno, avere un certo grado di illuminazione prima di poter arrivare al principio dell'iniziazione. Nel descriverli, per semplicità, dovremo considerare i tre gradini successivamente.